Abbiamo deciso anche quest'anno di fare la festa provinciale di Rifondazione Comunista. L'anno scorso a Imola, quest'anno invece torniamo a Bologna. Portiamo avanti come da anni la tradizione delle feste popolari comuniste che abbinano momenti di dialogo e dibattito tra diverse forze, tra comitati di cittadini, tra organizzazioni collettivi, a momenti più ludici come possono essere i concerti e anche attività per i bambini, dato che siamo in un parco pubblico. Saremo al giardino dell'ex velodromo in via Pasubio, nel quartiere Porto Saragozza, non lontano dall'ex CRB, non lontani dai prati di Caprara e da vertenze che abbiamo seguito in passato e che stiamo continuando a seguire, e i cui comitati saranno anche presenti alla nostra festa. Quindi sostanzialmente saranno 4 giorni, partiranno i festeggiamenti dalle 17:30 con bar e cucina a prezzi popolari e i concerti la sera dalle 20:30 circa. Tanti temi del dibattito, tra cui spicca la presenza di Ultima Generazione e un dibattito anche sulla Palestina. La scelta non credo sia casuale. No, certo. Con Ultima Generazione, soprattutto i nostri giovani comunisti da tempo collaborano nelle varie vertenze che riguardano il territorio di Bologna, che è uno dei territori più cementificati. Giusto ieri eravamo davanti alla prefettura insieme ad altre forze a protestare, e sulla Palestina, sempre, soprattutto tramite i giovani comunisti, ma anche tramite compagni più anziani, permane il nostro sostegno al Movimento per la Palestina, alla campada in università e a tutte le manifestazioni e iniziative a sostegno della resistenza palestinese. Vi aspettate una buona riuscita a livello di numeri? Di solito a Imola l'anno scorso era andata bene. E a Imola è andata bene, quest'anno ci aspettiamo un buon risultato in termini di numeri perché è una zona piuttosto frequentata e anche perché i temi sono piuttosto caldi. Sottolineo anche gli altri due dibattiti rilevanti che sono la presentazione dell'ultimo libro del giornalista di Rai 3, Nico Pio, che è portato avanti dall'Associazione per la Costituzione di Reggio Emilia, con cui collaboriamo, e da altre realtà pacifiste, e soprattutto nell'ultime 2 giornate i dibattiti sull'ambiente, sulle vertenze ambientali a Bologna e sulle vertenze nell'ambito dei lavoratori del comune, che si terrà sabato, e il dibattito sul lavoro con Paolo Ferreo della Direzione Nazionale di Rifondazione e Auro Bizzoni del Nazionale dei Giovani Comunisti, ai quali saranno invitati, come facciamo ad ogni festa, i rappresentanti di tutte le realtà sindacali della città. Sono dibattiti che solitamente attirano molte persone, perché siamo ormai una delle poche forze politiche che cerca di unire tutti i vari comitati, tutti i vari fronti di lotta. Quindi sono piuttosto sentiti perché sono quelle poche occasioni in cui si vedono realtà diverse dialogare tra loro e scambiarsi pareri e anche critiche.